Oggi intanto è un po' una scommessa, insomma, quindi parto con un invito a tutto il corpo studentesco, ricercatori, ricercatrici, docenti, personale tecnico amministrativo a venire, insomma, a Palazzo Ercolani. Già si è riempito un po' di studenti, c'è cioè una buona partecipazione, insomma. È un'iniziativa coordinata da diversi soggetti, non è un'iniziativa soggettiva nostra, ma insomma dei soggetti universitari che fanno parte della rete nazionale NoDDL a pieno regime, che ha lanciato una manifestazione per il 14 dicembre. In vista di questa manifestazione abbiamo pensato con altri territori, per cui nella giornata di oggi ci saranno anche iniziative in altre città e non solo a Bologna, di fare delle azioni incisive nelle università, scommettendo su una partecipazione giovanile studentesca che abbiamo visto nei territori, negli incontri, nei dibattiti, nelle assemblee che sono state fatte, nei cortei che sono stati fatti finora, insomma, in diverse città. Ecco. L'occupazione è contro il DDL sicurezza, che riteniamo assolutamente inaccettabile e che mina alle fondamenta della democrazia. Noi pensiamo che il conflitto sociale sia il motore della democrazia, anche pratiche conflittuali come l'occupazione che oggi stiamo portando avanti. L'occupazione di oggi e anche lo sciopero di domani, alla quale parteciperemo in diverse forme, sono pratiche che verranno toccate in senso repressivo da questo DDL, per cui innanzitutto pensiamo che sia importante dare un segnale. Già il vostro collettivo, ma non solo, nei mesi scorsi è stato oggetto della repressione proprio perché in quel caso avevate sollevato il tema abitativo attraverso un'occupazione. Sì, l'anno scorso a seguito di uno sgombero molto violento in via Mazzini abbiamo ricevuto misure cautelari, denunce, insomma una repressione importante per quanto riguarda le lotte per il diritto alla casa. Le stesse lotte per il diritto alla casa, la stessa pratica delle occupazioni abitative sarebbero toccate fortemente da questo DDL, sia in senso di aumento delle pene, sia di nuovi reati, non solo invasione di reati di edifici, ma l'introduzione del reato di occupazione, oltre che alla procedura di sgombero immediata, per cui un attacco molto violento da parte di questo governo alle lotte sociali, ma soprattutto a chi è marginalizzato nella nostra società. C'è la volontà proprio di zittire completamente il dissenso. Assolutamente sì, noi crediamo che questo DDL porterebbe il nostro paese, avrebbe una torsione autoritaria, insomma, del governo Meloni, simile insomma a Orban in Ungheria, per cui crediamo assolutamente necessario mobilitarsi, essere tutte in piazza il 14 dicembre a Roma per una manifestazione di massa che indichi, insomma, la lotta contro il DDL, una lotta per un altro paese. Ecco, invece su Palazzo Ercolani avete in previsione assemblee, iniziative di questa Il programma della giornata, intanto invitiamo tutta la stampa alle 11 per dichiarazioni in cui spiegheremo meglio le nostre motivazioni e come ci stiamo muovendo. A seguire ci sarà un pranzo e alle 15 una prima tavola rotonda alla quale parteciperanno dottorandi, ricercatori e ricercatrici, docenti dell'università, chi segue anche il tema della precarizzazione dell'università, vedi la riforma Bernini che prevede i tagli di mezzo miliardo, insomma, all'università. Riteniamo importante discutere anche di questo perché il DDL aiuterebbe il governo a fare quello che vuole, a implementare le sue politiche di tagli al welfare, alla salute, all'istruzione, per cui riteniamo importante anche far partire, insomma, una discussione su questa cosa che già c'è sia a Bologna che in altre città. E alle 18:30 una grande assemblea invece alla quale parteciperanno già diverse realtà, insomma, della rete bolognese, no DDL.